Ebbene sì, nonostante anni e anni di sforzi per indurire il mio cuore e mettermi in qualche modo al riparo dal contagio delle illusioni dei miei simili, vi devo confessare che sono stato anch'io toccato, diciamo, dall'evidente commozione e dalla tensione emotiva che trapelava dalla massa di soddisfatte telefonate che si è riversata ai microfoni della nostra radio nei giorni immediatamente successivi ai risultati elettorali e ancora dopo, per esempio, in occasione di quegli umidi festeggiamenti del 25 aprile di cui c'è stata appena elargita la ricostruzione radiofonica. E non che mancassero del tutto gli scettici e i prudenti, c'era persino qualche rarissimo insoddisfatto, ma nel complesso erano quasi tutti sicuri di avere vinto, finalmente, e felicissimi di dichiararlo. Una signora che dalla voce non sembrava proprio giovanissima si è persino spinta al punto di confidare a uno stupefatto Danilo Di Biagi che questa prima volta che la sinistra aveva vinto, per lei era ancora più bella di quell'altra prima volta là, se ho capito bene cosa voleva dire, in sé non è un paragone particolarmente felice, perché sappiamo tutti che quella prima volta là non è poi così sempre soddisfacente, almeno da tutti i punti di vista, ma insomma quel che conta è farsi capire. Quella signora, come tutti gli altri d'altronde, se l'ha fatta capire benissimo. Al punto da far venire persino un vecchio scettico come me il dubbio che tutti costoro avessero in un certo qual senso ragione. Il problema a questo punto è cercare di capire in quale senso potessero avere ragione, perché vincere fa sempre piacere, sempre meglio di perdere naturalmente, e aver fatto dispetto a Berlusconi, figuriamoci, ma non saranno poi molti a pensare che ci sia un motivo particolare di rallegrarsi per aver mandato in Parlamento, collegio per collegio, una massa di riciclati, di ex democristiani, repubblicani, azionisti bolliti e revisionisti vari, per non dire dei tanti sinceri nemici del popolo che hanno cominciato subito dal 22 mattina, un po' sul presto, le manovre per scaricare Bertinotti, con i cui voti si erano fatti eleggere, ed imbarcare Buttiglione. Operazione quest'ultima che, a giudicare da quanto accaduto nella scorsa legislatura, non dovrebbe richiedere degli sforzi particolari. I conti prima o poi tornano sempre, e nessuno dovrebbe dimenticare che la storia politica del buon Prodi, per quanti meriti egli abbia acquisito nei dibattiti televisivi, resta quella di un ex boiardo di Stato che ha anche vissuto l'interessante esperienza di fare il ministro con Andreotti, e il suo buonissimo vice si è distinto soprattutto per aver trasformato un quotidiano politico in un contenitore di videocassette, avviando un processo che ha dato una bella spinta alla crisi dell'idea di giornalismo nel nostro paese e al generale rimbambimento da video. E naturalmente chi ha solo un minimo di memoria storica o ha semplicemente vissuto la fine degli anni 70 e gli anni 80 ha tutti i motivi di diffidare della politica finanziaria e fiscale dell'ex sinistra DC e di quella giudiziaria dell'ex PC, i cui eredi oltretutto non allineano soltanto nel PDS. Stringi, resta assolutamente evidente che la nuova maggioranza è debole dal punto di vista parlamentare e tutt'altro che affidabile in molte delle sue componenti. E allora? Allora forse quelli che, pur presumibilmente consapevoli di tutto questo, dichiaravano ancora un popolo la propria felicità, che non è una dichiarazione da poco, forse volevano dire semplicemente che la politica è più complicata di quanto sembra. Che si può essere contenti di come siano andate le cose senza avere la necessità di identificarsi né con Dini né con Prodi, e neanche con Veltroni o Bertinotti naturalmente, e non solo perché quello di intendere il rapporto tra rappresentati e rappresentanti in termini di identificazione è un vecchio errore, da cui la crisi delle ideologie storiche dovrebbe averci messo più o meno al riparo, ma soprattutto perché ciascuno è libero di investire dei propri valori chi e che cosa vuole, ed è poco ma sicuro che i vari Dini, Prodi e anche Veltroni magari sono stati eletti in base ai nostri valori più che in base ai loro, e questo qualcosa può sempre contare. È una scommessa e c'è sempre un rischio. Il rischio è quello, lo conosciamo tutto, quello che gli eletti, una volta portato a casa il risultato, facciano finta di niente e continuino per la loro strada come se nulla fosse. Ne hanno proprio tutte le possibilità, hanno la possibilità di aspettare che i fedeli di Buttiglione scoprano che l'opposizione è in sé qualcosa di poco cristiano, oppure che si decida a correre in loro soccorso quell'integerrimo ex magistrato che ha fatto eleggere un portavoce nell'Ulivo e un cognato nel Polo e che non ha ancora deciso se degnarsi d'accettare un posto di ministro con gli uni o quello di leader dagli altri. Possono fare davvero di tutto. Ma dipendendo per la loro sopravvivenza anche dal legame con chi li ha eletti, non è detto, non è dettissimo che ci riescano, soprattutto se chi li ha eletti non deciderà di ritirarsi a vita privata fino alle prossime elezioni, ma riuscirà a escogitare qualche tecnica di tallonamento a vista, qualche strumento per fargli sentire un po' il fiato sul collo. Se riscoprirà in sostanza qualche forma di organizzazione politica e sociale, che non è facile, non è di moda e non è neanche probabile, ma è l'unica prospettiva su cui fondare questa nostra soddisfazione. Perché insomma abbiamo vinto e c'è ancora tutto da fare. Che gli dèi ce la mandino buona. Felicità. Tenersi per mano, andare lontano, la felicità. E i tuoi sguardi innocenti in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità. Felicità. Il cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va. E la pioggia che scende dietro le tende, la felicità. E abbassare la luce per fare pace, la felicità. Felicità. Felicità è un bicchiere di...